o di evitare delle sciocche osservazioni tipo che non sapete qual è il programma generale, vi do il programma generale. Curva, cosa riguarda? Curva, sta un po' avanti. Per cui a questo punto, chi non sa qual è il programma di esami, allora, il programma di esami, e sto parlando esclusivamente quindi di Flaubert, dell'educazione sentimentale, perché per Mallarmé sono guai e cose diverse, comunque ho qua, e dirò agli studenti di Mallarmé, allora di Mallarmé. Il programma per Flaubert è questo. Per coloro che fanno il primo anno è diverso da quelli che fanno il terzo anno. Poi capiremo il perché. Quelli del terzo anno hanno già portato certi test. Programma modulo A, primo anno. Lei è il primo anno? Flaubert, l'educazione sentimentale. Lettura integrale. Tutta. E per quanto riguarda la lingua, la cosa è molto semplice. Voi potete leggere con un esilio di traduzione italiana, potete leggerlo anche sostanzialmente in italiano, ma tutto quello che è stato commentato deve essere rigorosamente in francese. Va bene? Non voglio vedere sul tavolo degli esami una traduzione italiana. Per nessun motivo. Poi, Anna Maria Scaiola, il romanzo francese dell'Ottocento, la terza. Una di Anna Maria Scaiola, il romanzo francese dell'Ottocento, la terza, si trova irreperibile. Poi, i campi, R.Campi, Gustave Flaubert, il borghese, il semidio, il salto in banco, edizioni Napoli, i buoni. Il borghese, il semidio, il salto in banco. Non è che sono tre cose, è il titolo, eh? Il borghese, il semidio, il salto in banco. Napoli, i buoni. Ricordate che nelle case editrici, quando si fa la presentazione di un libro, si mette sempre prima la città, non come gli orari una volta fanno, prima l'editore, poi l'editore, poi l'anno, poi l'ultimo. Va bene? Anche questo dovrebbe essere, non dovrebbe, è preferibile, perché è un libro di due anni. Capito? Si chiama Campi. Poi, stiamo sempre parlando del primo anno. Per coloro che non frequentano o per coloro che non hanno potuto frequentare adeguatamente, e quindi, come sapete, saltando un certo numero di lezioni, poi diventa nel vostro interesse possibile portare il programma di frequentare. Quindi, se non frequentiamo, uno ha cominciato a seguire, poi però non ha potuto più seguire, e ha avuto qualche problema, eccetera, allora non dica né a se stesso, proprio al centro, né al professore. Io ho seguito qualche lezione, eccetera. Questo significa che immediatamente gli studenti, il professore prende a calcio. Ma poi non ho potuto, ho mancato qualche. E la domanda che mi faccio sempre è: avete seguito? Quanto avete seguito? Ecco. Quindi chi decide di fare il programma dei non frequentanti, porta Flaubert, Scaiola, e il Cacciavillani, Giovanni Cacciavillani, la coscienza immaginante nell'educazione sentimentale, edizione Panozzo. La coscienza immaginante nell'educazione sentimentale, edizione Panozzo. Ci siamo? Avanti. Adesso consideriamo il programma del modulo A, cioè Flaubert, per quelli del terzo anno. Per quelli del terzo. Ci sono quelli del terzo anno che se ne fa anche non so il suo. Il programma è l'educazione sentimentale. Per favore. Potrebbe essere anche dal primo. Che sia logico. succede solo quando si è maturato. Stiamo parlando di meditazione, il romanzo francese del Novecento a cura di Sandra Peroni, che è la stessa edizione della collana precedente, però questo riguarda il romanzo del Novecento, perché l'Ottocento è stato già adottato. Questa è la ratio. Giovanni Cazzarillani, la coscienza immaginante nell'educazione sentimentale. Cioè, va bene, ho fatto un altro video. Solo i non frequentati. Invece, per i non frequentati del terzo anno del modulo A, anche loro hanno un testo per loro che è Dardo, l'Ardea U, B, Dardo, Svegli. Gustave Flaubert, l'educazione sentimentale, questo è il francese, un certo anno che possiamo dire. Edizione Breal, Connaissance d'une œuvre, questa è la collezione. Breal, Connaissance d'une œuvre, è il breal. Va bene? Così. Siamo? Bene. Allora, da questo momento avete un'operazione con un'altra cosa. Facciamo tutte le comunicazioni di servizio. Dopo poi cominciano le lezioni di recupero. Lunedì non facciamo lezioni perché c'è il consiglio di facoltà. Allora, le prime lezioni di recupero saranno quindi martedì nell'aula 29, cioè questa, dalle 13 alle 15. E saranno recupero esclusivamente del modulo A, cioè il Flaubert. Quindi facciamo due ore su Flaubert martedì dalle 13 alle 15. Il capitoletto che abbiamo considerato la volta scorsa è il numero 23. Che numero è oggi? Vi ricorderete che c'è questo, il numero del 23, scusate, il titolo del 23 è severità indispensabile, abbiamo detto. E si tratta di questo, si tratta del fatto che nella fabbrica di ceramiche che questo confante di Arnoux è riuscito a mettere su, ma insomma tra i trallanzi e tutto quanto eccetera, c'è un magazzino, loro abitano lì, una specie di casa di campagna. Uno dei personaggi, una specie di agente, come dire, di ufficiale di servizio, di vigilante, è Senecal, personaggio molto significativo e importante, perché su di lui si concentra l'odio politico di Flaubert. Senecal è il tipico fanatico, è quello che nei tempi nostri, non nostri per fortuna perché i tempi sono abbastanza lontani, che quelli di 20-30 anni fa in Italia erano le Brigate Rosse di cui tutti hanno subito parlare. Senecal è un perfetto brigatista, come tutti gli estremisti di destra o di sinistra, può spostarsi nella posizione estrema, cioè se era di destra diventa di sinistra o in viceversa. Quindi è diventato una specie, messo lì, lui era un ripetitore di matematica, vi dicevo, è diventato un uomo durissimo, rigidissimo, cioè la stessa durezza che aveva precedentemente da sinistra, adesso ce l'ha per così dire da destra, difendendo gli interessi del Parlamento. E vi raccontavo appunto di questo episodio di un'operaia che manca i suoi doveri, immediatamente lui le dà una multa, poi una seconda multa, e Frederick, che è un buono, assiste quindi con profondo disaccordo a questa manifestazione di severità. Come una volta che ci capiamo bene su queste cose sottilissime che la critica normalmente trascura, presentando in modo piuttosto monolitico il personaggio di Frédéric, che invece nella sua squisita modernità è un personaggio, vi dicevo, ricchissimo di sua natura. Vi ho appena detto, un buono. Sì, ma in che senso è un buono? Ecco. Diciamo che uno che ama la donna buona. Ci sono uomini che sono attratti da donne che siano veementi, anche non necessariamente buone, basta che siano sexy, che siano attraenti. Altri invece che vogliono la donna buona. Chi vuole la donna buona dà un certo sospetto. Non che sia un torto volere una donna buona, ma è come se fosse una persona debole che ha bisogno di protezione, quindi cerca nella figura femminile in realtà un sostituto della figura materna. Un sostituto della figura materna. Lui buono è, senza dubbio, sì, fa i suoi interessi, lui quello che vuole è semplicemente Madame Arnoux. Quando parliamo quindi di bontà di Frédéric, dobbiamo sempre intendere questa bontà unita non a viltà, ma una sorta di debolezza. Vedete, chiudo un pochino con la porta, abbiate pazienza, perché io di qua valuto poco poco, solo poco poco. Grazie signorina, basta così. Solo per darmi un'idea di sia maggiormente così, si fa per dire, l'altro. Quest'idea della durezza, della severità di Senecal consente a lui, a Frédéric, di fare un'osservazione su chi è Senecal. Lei, Madame Arnoux, è con lui, Frédéric, dura, severa. Perché lei è dura e severa? Lei è dura e severa perché non ha capito, perché non vuol capire, ma soprattutto perché essendo una donna sposata non si può permettere di capire. Questo è un tema essenziale, no? La donna onesta, che cede delle passioni dentro di sé, ma al di fuori non può permettersi. E direi che la letteratura è piena di donne di questo genere. Un romanzo bellissimo del Seicento, quindi nulla a che fare con la paccottiglia oscena che voi sapete che sempre vi segnalo di non andare a vedere nemmeno nelle librerie, oppure se andate nelle librerie e vedete i libri di vari baricco, eccetera eccetera, andate per buttarli per terra e poi uscire, ecco, semplicemente con un segno di dispregio. Un grande libro che può aiutare la formazione della vostra giovane anima è La Princesse de Clèves. La Princesse de Clèves è stato il primo romanzo dell'età moderna francese del 600, dico del 600, 1678 mi pare. Racconta la storia di una donna sposata che si innamora di un uomo. E al marito però non ama e si comporta, si è sicura, ma non solo non lascia trapelare, ma non si comporta come una donna innamorata, come un'eroina di Racine o di Corneille, meglio ancora, come un personaggio corneliano. Chiede dentro di sé il suo amore, non può consentirselo. Sono affascinanti donne del genere, non sono poi tanto lontane dalla realtà. Io ho conosciuto una signora, madre di una mia amica, che aveva quattro figli, a un certo punto era moglie di un questore, una persona importante, di Salerno, era a Salerno, e viene fuori che lei, se a un certo punto, lei è di no, se non parli di due parti, no? A 89 aveva molto lontano. Insomma, ha chiesto al marito di cambiare città. Erano impiantati lì con quattro figli, ha chiesto di cambiare città perché l'uomo che amava non poteva essere tradotto. Quindi ci sono donne di questa rigidezza. E qui c'è proprio la donna dura, rigida, che però ha una passione che raccoglie di sé, di cui nulla sappiamo fino a questo momento, e l'uomo che invece è disposto a tutto, a qualunque compromesso pur di avere questa donna. E allora lui dice, se non è il punto, Eccolo qua, sì. Lui commenta questa funzione e dice, ricordate come diceva con rien de plus sot, nulla di più sciocco che una che questa punizione, dice quelli che vanno a voi prese, ci sono prese delle indispensabili. Ma come voi che siete così buoni? Oh, mi sbaglio, perché voi vi divertite qualche volta a fare sogni. Non capisco gli enigmi, mio caro. E il suo sguardo austero, più ancora che le parole, lo fermò. Frederick era però determinato a continuare. Un libro di Musset, cioè un autore romantico, l'emblema del romanticismo, parlo molto. Un libro di Musset si trovava lì per caso sul comò. Lui ne voltò qualche pagina, poi si mise a parlare dell'amore, delle sue disperazioni e delle sue follie. Tutto ciò, secondo Madame, era criminale o artificioso. Il giovane si sentiva ferito da questa negazione e per combatterlo citò a riprova i suicidi che si vede sui giornali, esaltò i grandi personaggi letterari, Fedra, Didone, Romeo, De Grieux, ma sì, impicciava, si incartava di ergonomico, aveva difficoltà a muoversi con le sue stesse parole. Il fuoco nel caminetto non bruciava più, la pioggia frustava i vetri, ma la mano senza muoversi restava lì con due mani, sui braccioli della poltrona. Le ali della cuffietta cadevano come vende di una sfinge, il suo profilo puro si stagliava in pallori in mezzo all'ombra. Lui aveva voglia di gettarsi sui ginocchi. Uno scricchiolio ci fu nel corridoio e non osò. Era impedito, d'altronde, da una sorta di timore religioso. Quel vestito, confondendosi con le tenebre, gli sembrava smisurato, infinito, impossibile da sollevare. E precisamente a causa di questo il suo desiderio raddoppiava. Ma la paura di far troppo e di non fare abbastanza gli toglieva ogni capacità di discernere. Se le spiacessi, pensava, se mi spiaccio, pensavo, che mi cacci tu. Ma se mi vuole, mi incoraggi. E gli disse sospirando, dunque voi non ammettete che si possa amare una donna? Madame Arnoux replicò, quando è da sposare, la si sposa. Quando appartiene a un altro, ci si allontana. Così la felicità è possibile. No, ma non la si trova mai nella menzogna, nelle inquietudini, nei rimorsi. Che importa se poi il prezzo sono gioie sublimi? L'esperienza è troppo costosa. Allora lui vuole provare l'acqua dell'ironia. La virtù non sarebbe dunque che viltà? Dite pure chiaroveggenza. Anche per quelle persone che dimenticassero i doveri o la religione, il semplice buon senso può bastare. L'egoismo diventa una base solida per la saggezza. Ah, che massime borghesi avete! Ma io non mi vanto di essere una gran signora. In quel momento il bambino entrò nella stanza. Mamma, vieni a pranzo? Sì, subito. Frederick si alzò. Nello stesso momento entrò anche Marta. Non potendo risolversi ad andare via e con uno sguardo pieno di suppliche, quelle donne di cui parlate sono dunque insensibili? No, ma sorde, se occorre. E lei rimaneva in piedi sulla soglia della camera, coi suoi due bambini al fianco. E gli si chinò senza dire una parola. Ed ella rispose silenziosamente al suo saluto. Quel che provò lì per lì fu uno stupore infinito. Quella maniera di fargli comprendere l'inanità della sua speranza lo schiacciava. Si sentiva perduto come un uomo caduto in fondo a un pozzo e che sa che non lo aiuteranno e che dovrà morire. Camminava tuttavia, ma senza avere niente, a caso, e urtava contro le pietre e sbagliò la strada. Un uomo di zoccoli risuonò all'orecchio. Erano gli operai che uscivano dalla fonderia, allora improvvisamente si raccapezzò. All'orizzonte, la terra della ferrovia, passava una linea di fuoco. Arrivò mentre un treno partiva e si lasciò cadere in un vagone e si addormentò. Un'ora dopo, sui boulevard, l'allegria di Parigi la sera gettò tutto a un tratto il suo viaggio in un passato molto lontano. Voleva essere forte e alleggerì il suo cuore denigrando Madame Arnoux con epiteti ingiuriosi. Un imbecille, un'oca, un bruto. Non pensiamoci più. Vediamo il commento. Questo, per esempio, mirabile passo. È buia, naturalmente, con questa, cominciamo quantomeno a farlo, perché purtroppo sono quello. E lui naturalmente è Flaubert con questa viltà, con questa debolezza, con questa, vorrei dire, bontà maschile. Flaubert era, questo non ve l'ho detto ancora bastevolmente, era una posizione profondamente critica verso gli uomini. Cioè tutti, mentre le donne sono il suo grande amore e le ha dipinte come stiamo vedendo, tutti gli uomini sono dipinti con tinte nere. Chi è stupido, chi è urfante, chi è mediocre. E starei per dire che in una sorta di feroce, drammatica imparzialità vuol dipingere male, se mi intendete, lo stesso Frederick, cioè lui. Questa bontà di Frederick è in realtà la bontà di un furbacchione, di un opportunista, di un debole, di un cacasotto. Allora lui, con questa cosa delle severità indispensabili, dice, ma come, ma voi non siete severi, voi siete buoni. E poi, tirando l'acqua al suo mulino, naturalmente dice, ma no, non è vero che voi siete buona, non è vero. Spesso noi diciamo a una donna che non è buona, quando la donna non cede al nostro desiderio, allora diciamo che è cattiva, no? Una cosa che è impressionante è sempre vedere come questa determinazione buono-cattivo, che non si dice spesso quando il rapporto funziona, sia da parte dell'uomo, sia da parte della donna, invece si dice dopo che il rapporto è finito. E chi ti ha abbandonato viene ritenuto cattivo, cioè si usa questa terminologia che poi è quasi infantile, no? È cattiva perché non mi ama più. C'è questa specie di equazione, come se il non amare più fosse cattiveria. Il fatto che non ha concesso se stessa a me, questo vuol dire che è cattiva. E lui quindi dice, è cattiva, è severa. E a questo punto vediamo una mirabile metamorfosi, una mirabile assunzione di ruolo da parte di Bravo, che diventa un personaggio rigido, austero. A un certo momento, Flaubert dice, parla di lei come di una sfinge. Le sfingi, come ricorderete, le sfingi erano quegli animali, donne e animali, che avevano una caratteristica, che quelli che facevano gli enigmi, no? E che non lasciavano penetrare nel loro interno, nel loro animo, per così dire. Erano dure e rigidi, e quando una donna vuole non cedere, è costretta, se ha dei sentimenti lei, se non ha dei sentimenti manda al diavolo, l'infortunio è la cosa che chiude lì, ma se ha dei sentimenti è costretta a diventare una spiglia, vedere i suoi sentimenti. E lui però è determinato a dire tutto, a dire quello che vuole, a dire quello che vuole perché pensa che questa sia l'occasione definitiva. E lei risponde, vedremo, come in una sorta di teatro, cioè non è più se stessa, è diventata il personaggio della donna che deve resistere a un uomo che non può avere. E quindi voi vedrete qualcosa di strano, di conturbante, che dà delle risposte molto precise, ma molto, molto, molto precise e molto dure, ma al tempo stesso molto umane, molto letterarie, e come se la sapienza dei moralisti francesi confluisse in questo discorso di Madame Arnault, no? Allora, tutte le sue battute sono ridicolmente disumane. È come se ci sono delle donne in particolare, ho conosciuto nella vita, no, uomini no, ma donne sì, che hanno una sorta di sordida abilità, quella di rispondere a palletta da tennis alle obiezioni che vengono fatte, per questo credono di essere molto intelligenti, sono di un'orrida stupidità, cioè chi più risponde a tono non è detto che sia la persona più intelligente. La persona più intelligente spesso è quella che non risponde a tono, ma che concede spazio all'interlocutore e spazio alla sua propria riflessione. Invece vedete che in queste battute di dialogo la cosa interessante è che lei risponde sempre come un libro stampato, diremmo noi, no? Come un libro stampato. Quando per esempio dice allora le donne non si possono amare, lei risponde sì, se non sono sposate, allora le si sposano. E allora lui dice, ma come, ma la felicità è impossibile perché spesso uno non può sposare chi vuole. E lei risponde, anche qui guardate come sono scelte bene le parole, come gettano il ridicolo con questa letterarietà e artificialità sul personaggio di Madame Arnault. Dice, non si può vivere, e scandisce, non fosse un libro stampato, non si può vivere nella menzogna, nelle inquietudini, nel rimorso. Cioè, di fronte a una persona che non ha più scelto, come Madame Arnault, colloquiare sul piano umano, ma semplicemente di recitare il personaggio di donna rigida che deve stare ai suoi doveri, la conversazione si fa evidentemente impossibile. A un certo momento lui vede questo vestito, questa gonna, e con le solite finezze mirabili sul piano erotico che Flaubert ha, dice la gonna, il vestito di lei, gli sembrava smisurato. Ecco, smisurato, perché per far l'amore con una donna bisogna togliere il vestito. Ecco, si può fare molte cose per una bella con una donna vestita, ma se uno vuole avere un compito, deve togliere il vestito. Non è stato inventato nulla di meglio di questo. Bisogna togliere. Ma se il vestito è smisurato, è come se lui sapesse che questo vestito è tutta vestita. Una donna che abbia un vestito smisurato è una donna che non ha posto per la nudità, è tutta vestita. Non solo il vestito è smisurato, ma è infinito. Non finirà più questo vestito. Quindi, posto che lui dovesse toglierlo, dovesse sfilare il vestito, non riuscirebbe perché è infinito. E poi c'è una parola cruda che dice non si può sollevare. Per far l'amore bisogna sollevare il vestito, e questo non è sollevabile. Ma naturalmente il desiderio maschile e femminile aumenta in presenza dello Stato. E qui, concludiamo per ora naturalmente, qui c'è il grande tema. Quanto è vero il desiderio all'uomo? Ci sono almeno due motivi per pensare che sia poco vero. Il primo è che è alimentato dall'immaginazione. Quindi che, indipendentemente dai dati reali della persona, se io decido che quel certo naso, quella bocca, quella postura del corpo possano eccitare, coinvolgere, e forse appartengono alla persona quella voce che posso più amare se decido. A quel punto l'immaginazione, se ampia, ricca, va per la sua strada e il desiderio aumenterà. Il secondo elemento che ci fa pensare, secondo Flaubert, che il desiderio sia poco vero, il primo è l'immaginazione, il secondo è l'ostacolo. Se non c'è ostacolo, il desiderio si spegne, ma se c'è ostacolo diventa enorme. Mettiamo che a questo punto immaginiamo di essere, per una sorta di miracolo, Gustave Flaubert. Ecco. Se a questo punto noi decidessimo, siamo ancora abbastanza indietro nel romanzo, se vogliamo, no? Decidessimo di far sì che Madame Arnoux ceda a lui, da questo momento sarebbe meno desiderabile. Perché c'è, Flaubert mostra, proprio un'ascesa del desiderio fino al punto di massima negazione e costrizione. Poi c'è una sorta di euforia e poi, quando il desiderio invece gli si può consentire, e poi c'è un calare del desiderio. E questo calare del desiderio è l'esperienza più triste, dice Flaubert, la più malinconica della vita, no? Perché è come se uno si vedesse sfuggire dal paradiso, vedesse se stesso, non che il paradiso se ne va, ma che lui se ne va via dal paradiso. Fermiamoci qui.